C'erano uomini che sapevo parenti di altri senza aver mai pensato che avessero un tratto in comune. Ammirando il vecchio eremita dai capelli bianchi che era diventato Le Grandin, improvvisamente constatai, scoprii, posso dire con soddisfazione da zoologo, nella superficie delle sue gote la struttura di quelle del suo giovane nipote, Léonore de Cambremer, che pure aveva l'aria di non assomigliargli affatto. A quel primo tratto comune ne aggiunsi un altro che non avevo notato in Léonore de Cambremer, poi altri, diversi da quelli che la sintesi della sua giovinezza mi offriva abitualmente, così che ben presto ebbi di lui una sorta di caricatura, più vera, più profonda che se fosse stata somigliante alla lettera. Suo zio adesso mi sembrava solo il giovane Cambremer che avesse preso per gioco l'apparenza del vecchio, che sarebbe stato un giorno nella realtà, di modo che non era soltanto ciò che i giovani d'un tempo erano diventati, ma ciò che quelli d'oggi sarebbero diventati, a darmi con tanta forza la sensazione del tempo. Avendo perduto i tratti in cui era scolpita, se non la giovinezza, almeno la bellezza, le donne avevano cercato se, con il viso che era loro rimasto, non fosse possibile farsene un'altra. Spostandone il centro, se non di gravità, almeno di prospettiva, componendogli intorno i lineamenti secondo un altro carattere, inauguravano a 50 anni una nuova specie di bellezza, così come si intraprende all'ultimo momento un nuovo mestiere, o come a una terra che non vale più nulla per la vigna, si fanno produrre barbabietole. Attorno a quei nuovi lineamenti si faceva fiorire una nuova giovinezza. Le sole a non potersi giovare di queste trasformazioni erano le donne troppo belle o quelle troppo brutte. Le prime, scolpite come un marmo dalle linee troppo definitive perché vi si possa cambiare alcunché, si sgretolavano come statue. Le seconde, se avevano qualcosa di deforme nel volto, godevano persino, rispetto alle belle, di qualche vantaggio. Innanzitutto, erano le sole che si riconoscessero immediatamente. Si sapeva che a Parigi non esistevano due bocche simili, e la loro me le rendeva riconoscibili a quel ricevimento, dove non riconoscevo più nessuno. E poi non sembrava nemmeno che fossero invecchiate. La vecchiaia è qualcosa d'umano. Loro erano dei mostri, e il loro aspetto non appariva più cambiato di quello d'una balena. Certi uomini, certe donne, non sembravano invecchiati. La loro figura era altrettanto svelta, il loro volto altrettanto giovane. Ma se, per parlare, ci si accostava molto al loro viso dalla pelle liscia e dai lineamenti fini, esso appariva allora affatto diverso, come succede a una superficie vegetale, a una goccia d'acqua o di sangue se la si mette sotto il microscopio. Distinguevo allora molteplici macchie adipose sulla pelle che avevo creduto liscia e che esse mi rendevano disgustosa. A quell'ingrandimento le linee non resistevano. Quella del naso, da vicino, si spezzava, si arrotondava, invasa dagli stessi cerchi untuosi del resto della faccia, e da vicino gli occhi sparivano sotto delle borse che distruggevano la somiglianza del volto attuale con quello d'un tempo che s'era creduto di ritrovare. Così questi invitati erano giovani se visti da lontano. La loro età aumentava con l'ingrandirsi del volto e con la possibilità di osservarne i vari piani. Dipendeva dallo spettatore, che per vedere quelle facce doveva mettersi al posto giusto e applicare ad esse solo gli sguardi da lontano che rimpiccioliscono l'oggetto, come la lente scelta dall'ottico per un presbite. Per loro la vecchiaia, come la presenza degli infusori in una goccia d'acqua, era meno una conseguenza degli anni che della grandezza della scala nella visione dell'osservatore. Ritrovai un mio ex compagno, che per 10 anni avevo visto quasi ogni giorno. Qualcuno volle ripresentarci. Mi avvicinai dunque a lui, e lui, con una voce che riconobbi benissimo, mi disse: «È una grande gioia per me, dopo tanti anni». Per me, invece, che sorpresa! Sembrava venire, quella voce, da un fonografo perfezionato, perché se era la voce del mio amico, usciva però da un omone brizzolato che non conoscevo, e mi sembrava dunque che solo con un artificio, con un trucco meccanico, avessero potuto mettere la voce del mio compagno in quel vecchio, massiccio e sconosciuto. Eppure sapevo che era lui. La persona che ci aveva presentati l'uno all'altro dopo tanto tempo non aveva niente del mistificatore. Quanto a lui, dichiarò che non ero cambiato e capii che credeva di non esserlo. Allora lo guardai meglio. E tutto sommato, a parte il fatto che era così ingrassato, aveva conservato parecchie cose ad un tempo. Purtuttavia non riuscivo a capacitarmi che fosse lui. Cercai allora di ricordare. Aveva, in gioventù, occhi azzurri, sempre ridenti, perpetuamente mobili, in cerca evidentemente di qualcosa a cui non avevo pensato e che doveva essere qualcosa di affatto disinteressato, probabilmente la verità, perseguita in perpetua incertezza, con una sorta di monelleria, di rispetto errante per tutti gli amici della sua famiglia. Ora, divenuto un uomo politico influente, capace, dispotico, quegli occhi azzurri, che peraltro non avevano trovato ciò che cercavano, si erano immobilizzati, e questo aveva per effetto uno sguardo aguzzo, come da sotto un sopracciglio aggrottato, l'espressione di gaiezza, d'abbandono, di innocenza. S'era mutata così in un'espressione d'astuzia e di dissimulazione. Decisamente, mi sembrava che fosse qualcun altro. Quando di colpo, a una cosa che dicevo, sentii la sua risata irrefrenabile d'una volta, quella che s'accordava con la perpetua gaia mobilità dello sguardo. Certi melomani sostengono che orchestrata da X, la musica di Z diventa completamente diversa. Sono sfumature che il profano non coglie. Ma un ridere folle e soffocato da fanciullo sotto un occhio aguzzo, come una matita azzurra ben appuntita, sebbene un poco obliqua, è qualcosa di più d'una diversa orchestrazione. La risata cessò. Avrei tanto voluto riconoscere il mio amico, ma come nell'Odissea Ulisse che si getta sulla madre morta, come uno spiritista che cerca d'invano d'ottenere da un'apparizione una risposta che la identifichi, come il visitatore d'una mostra di elettricità che non riesce a credere che la voce restituita senza alterazioni da un fonografo sia davvero spontaneamente emessa da una persona. Smisi di riconoscerlo. Bisogna fare, tuttavia, questa riserva: che le misure stesse del tempo possono essere, per certe persone, accelerate o rallentate. Avevo incontrato casualmente, per strada, 4 o 5 anni prima, la viscontessa di Saint-Fiacre, nuora dell'amica dei Germain. I suoi lineamenti scultorei sembravano assicurarle una giovinezza eterna. D'altronde era ancora giovane. Ebbene, a dispetto dei suoi sorrisi e dei suoi saluti, non riuscii a riconoscerla in una signora dai tratti talmente dilaniati che la linea del viso non era ricostruibile. Il fatto è che da 3 anni prendeva cocaina e altre droghe. I suoi occhi, profondamente cerchiati di nero, erano quasi stravolti. La sua bocca aveva un ghigno strano. Si era alzata apposta, mi dissero, per quel ricevimento, lei che restava mesi interi senza lasciare il letto o la sedia a sdraio. Il tempo ha di questi treni espressi, speciali, che portano velocemente a una vecchiaia prematura. Ma sul binario parallelo circolano in senso opposto treni quasi altrettanto veloci. Presi il signor di Courgivaux per suo figlio perché sembrava più giovane. Doveva aver superato la 50ina e sembrava più giovane che a 30 anni. Aveva trovato un medico intelligente, soppresso l'alcol e il sale. Era tornato ai 30 anni e sembrava anzi quel giorno che non li avesse ancora compiuti. Il fatto è che proprio quella mattina si era fatto tagliare i capelli. Per contro ci fu uno che, sebbene me ne avessero detto il nome, non potei riconoscere e credetti a un omonimo perché non c'era nessun tipo di rapporto con quello che non solo avevo conosciuto a suo tempo, ma avevo ritrovato pochi anni addietro. Eppure era lui, solo imbiancato e ingrassato, ma s'era tagliato i baffi ed era bastato questo per fargli perdere la sua personalità. Curiosamente, il fenomeno della vecchiaia sembrava tener conto, nelle sue modalità, di alcune abitudini sociali. Qualche gran signore, avvezzo da sempre a vestirsi della più semplice alpaca, con certi vecchi cappelli di paglia che un piccolo borghese non avrebbe mai portato, era invecchiato allo stesso modo dei giardinieri, dei contadini in mezzo ai quali era vissuto. Macchie brune avevano invaso le loro guance e il loro volto era ingiallito, s'era scurito come un libro. E pensavo anche a tutti quelli che non c'erano perché non potevano esserci, per i quali un segretario, cercando di dare l'illusione della loro sopravvivenza, aveva mandato una di quelle lettere di scuse che arrivavano di tanto in tanto alla principessa, a quei malati che stanno morendo da anni, che non si alzano, non si muovono più e che anche in mezzo alla frivola assiduità dei visitatori, attratti da una curiosità da turisti o da una fiducia da pellegrini, sono simili, gli occhi chiusi, il rosario in mano, il già funebre lenzuolo respinto a metà, a figure scolpite sino allo scheletro dal male, in una carne rigida e bianca come il marmo, e giacenti sul loro sepolcro. Le donne tentavano di restare in contatto con quanto c'era stato di più individuale nel loro fascino, ma spesso la nuova materia del loro viso non vi si prestava più. Faceva spavento pensare ai periodi che erano dovuti trascorrere prima che una simile evoluzione geologica d'un volto fosse compiuta, vedere quali erosioni si erano prodotte lungo il naso, che enormi alluvioni attorno alla linea delle guance circondavano tutto il viso con le loro masse opache e refrattarie. Alcune donne, certo, erano ancora riconoscibilissime, il viso era rimasto pressoché lo stesso, avevano soltanto, come in acconcia armonia con la stagione, indossato i capelli grigi, che erano il loro completo d'autunno. Ma per altre, e anche per certi uomini, la trasformazione era così totale, l'identità così impossibile da stabilire, per esempio fra un Bruno Viveur di cui si aveva memoria e il vecchio monaco che si aveva sotto gli occhi, che più ancora che a quella dell'attore, queste favolose trasformazioni facevano pensare all'arte di certi mimi prodigiosi, di cui Fregoli rimane il prototipo. La vecchia aveva voglia di piangere perché si rendeva conto che l'indefinibile e malinconico sorriso in cui era consistito il suo fascino non riusciva più a irraggiarsi sino alla superficie della maschera di gesso applicatale dalla vecchiaia. Poi, di colpo, convinta di non poter più piacere, trovando più spiritoso rassegnarsi, se ne serviva come d'una maschera da teatro per far ridere. Ma quasi tutte le donne non si concedevano tregua nello sforzo di lottare contro l'età e tendevano lo specchio del loro viso verso la bellezza che s'allontanava come verso un sole al tramonto di cui volessero appassionatamente conservare gli ultimi raggi. Certune, per riuscirci, cercavano di spianarlo, di allargarne la bianca superficie, rinunciando al piccante delle fossette minacciate, alla grazia sbarazzina d'un sorriso condannato e già mezzo disarmato, mentre altre, vedendo la bellezza definitivamente scomparsa e costrette a rifugiarsi nell'espressione, così come si compensa la perdita della voce con l'arte dell'addizione, si aggrappavano a una smorfia, a una zampa di gallina, a uno sguardo vago, qualche volta a un sorriso, che causa l'incoordinazione di muscoli che non obbedivano più, dava l'impressione che piangessero.